Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: viva le popolari, sospese anche a raffiche per eccessi di rialzo. Adesso vediamo come vanno. La popolare di Milano più 13,71%, il Credito Valtellinese più 11,14%, UbiBanca più 10,20%, Banco Popolare più 9,30%, Popolare dell'Etruria del Lazio più 8,5, Popolare dell'Emilia Romagna più 7,5, Popolare di Sondrio più 6,70, e questo per dire solo le principali. Mentre le banche non popolari guadagnano, penso a Unicredit il 2,70, Monte dei Paschi il 3,70, ma meno. Che cosa è successo? Beh, domani a questo punto si è avuta anche la conferma: nel Consiglio dei Ministri sarà presente la norma che andrà a cambiare la gestione delle banche popolari. Nel decreto si chiamerà Investment Compact. Sostanzialmente, da quello che si è capito, verrà abrogato, quindi eliminato, il voto capitario, ossia l'obbligo nel mondo delle banche popolari che ogni voto venga associato una persona al di là di quello che è la percentuale. Cioè, tu nelle banche popolari puoi avere il 10% della banca o il 2%, il voto è sempre uno, uguale a chi ha lo 0,001. Questo perché andremo, domani lo spiegheremo magari meglio, anche dopo, fa parte della storia del mondo delle popolari, del credito cooperativo, per cui non si voleva che vi fossero dei soci dominanti, perché la vocazione era molto cooperativistica sul territorio, appunto, di fatta di soci, di realtà dove si cercava di generare appunto un'economia diffusa. Tutto bene, tutto virtuoso, ma il mondo è cambiato, nel senso che definire la Popolare di Milano o UbiBanca o il Banco Popolare, con quello che abbiamo visto, delle banche legate solo al territorio in cui ha ancora un senso il voto capitario, ha ancora un senso la soglia per le partecipazioni dei singoli soci, attualmente all'1%, cioè uno non può avere di più, e il numero minimo di soci previsti 200, tutto questo modello, ripeto, che fa parte della storia economica, industriale e anche finanziaria di questo paese, che vedeva nei crediti cooperativi, nelle banche popolari, la classica cassa, diciamo, del territorio, fatta di piccolissimi azionisti, del mutualismo nel credito. Questa cosa qui non c'è più per la stragrande maggioranza dei popolari, e in compenso però ha bloccato qualunque tipo di sviluppo dei grandi istituti delle banche popolari, perché è ovvio che con queste regole le banche non sono scalabili, non sono comprabili. Se tu hai ogni socio ha un voto e non di più, e non si pesano le azioni, è ovvio che nessuno va a immaginare un'operazione sulle popolari. Visto che il Consiglio dei Ministri domani cambierà questo, il mercato scommette ampiamente che adesso diventeranno contendibili o con fusioni o con acquisizioni anche le banche popolari, in questo momento oasi protetta nel mondo delle fusioni bancarie. Diventeranno delle banche molto simili, se non identiche, alle normali banche SPA. Di questo parleremo, anche perché poi il mercato, oltre al tema delle popolari molto italiano, si sta avvicinando al giovedì, il giovedì non nero, ma il giovedì in cui Mario Draghi, nell'annunciare le sue previsioni sui tassi, dirà anche come, se usiamo sempre il dubitativo, anche se ormai è quasi così formale, e come funzionerà il quantitative easing, e quindi l'acquisto da parte della banca centrale di titoli di Stato dei paesi dell'area euro. Spesso questi titoli sono in pancia alle banche stesse, e questo è il tema che affronteremo nella seconda ora del programma, ma è già il tema di borsa. Non è un caso che Milano oggi guadagni più di mezzo punto percentuale in media rispetto alle altre borse europee: più 1,15 Milano, Parigi più 0,40, Francoforte più 0,60, Londra più 0,50%. L'America invece è chiusa per il Martin Luther King Day e quindi non fa riferimento. L'euro si è riposizionato leggermente sopra quota 1,16-1,16,24, ma sempre su livelli di relativa debolezza. Il peggior titolo, visto che ho detto i migliori oggi, è G-Tech, meno 2,80. Deboli anche gli energetici con Enel che perde lo 0,40, Eni lo 0,90 e Saipem lo 0,70%. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Parleremo anche di Russia e dall'altra parte parleremo anche degli Stati Uniti in maniera abbastanza indiretta. Perché? Perché domani, e lo commenteremo in diretta, Barack Obama, come oggi anticipato da molti quotidiani, annuncerà un piano di tassazione per, molti hanno scritto per i più ricchi, ma insomma sui patrimoni e sulla parte percentuale più ricca della popolazione americana, l'1% famoso. Dovrebbe essere una riduzione delle tasse per la classe media, un aumento delle aliquote per l'1% più abbiente della popolazione, sarebbe in arrivo anche una nuova tassa per le grandi, grandissime imprese con attività superiore ai 50 miliardi di euro e di dollari e un prelievo nel momento in cui vengono trasferite per successioni ereditari i titoli finanziari. La Casa Bianca si attende un gettito da questa roba da 320 miliardi di dollari che verrà destinato a un credito d'imposta per le famiglie con un reddito complessivo fino a 210 mila dollari lordi e agevolazioni per ogni bambino statunitense al di sotto dei 5 anni. Le altre notizie in breve. Alcuni di voi continuano a chiedermi se conviene acquistare BTP adesso. BTP sono i rendimenti ancora 10 anni minimi storici, quindi a rigor di logica uno dice sì, acquistare adesso perché poi possono solo salire. Ma la domanda la gireremo più avanti ai nostri ospiti nella seconda ora del programma. Per quello che riguarda il petrolio, volete sapere, è sceso ulteriormente, comunque è diciamo stabile sui 48 dollari al barile il WTI, quindi quello americano. E visto che accennavamo al tema di Barack Obama, poi avremo anche il commento di Radio 24 dei 100 secondi. Oggi, e come sempre in occasione e poco prima dell'apertura dei lavori del forum, il World Economic Forum di Davos, come sa chi segue questo programma, noi non abbiamo un grande amore per questo forum. Cioè, un ottimo momento per andare a fare affari, va benissimo, in una ridente località svizzera per parlarsi anche un po' addosso delle volte. Cioè, Chernobyl in confronto è una roba da dilettanti, da Boy Scout rispetto a Davos. Ecco, siccome lì non arrivò nessuna previsione della crisi che stava scoppiando, l'unico fu Rubini, preso per i fondelli quella volta anche dall'ex ministro Tremonti, quando disse attenzione qua sta per esplodere tutto, era 2007. Però da Davos non abbiamo mai visto questa grande capacità predittiva. Capiamo benissimo che ci debba essere un momento in cui i vari manager si pagano o fanno pagare ai gruppi che gestiscono un appuntamento, nulla di male. Da lì a immaginare che da Davos arrivino notizie, analisi stellari, ce ne passa. Però prima di Davos l'organizzazione non governativa britannica Oxfam lancia sempre un rapporto sulla distribuzione della ricchezza mondiale. E allora ascoltiamo il direttore generale Roberto Barbieri, perché anche quest'anno hanno stimato nell'1% il numero di paperoni che ha come ricchezza pro capite il 99% pari e anche superiore a quella del 99% del resto della popolazione. Il direttore generale di Oxfam è stato raggiunto dalla nostra Anna Marino. Viene fuori una diseguaglianza che definiamo esplosiva, ha delle tendenze negli ultimi anni al continuo incremento. L'anno scorso noi a Davos siamo usciti con un rapporto che diceva che le 85 persone più ricche del pianeta hanno la stessa ricchezza della metà del pianeta. Quest'anno usciamo con un altro dato, queste 85 sono diminuite a 80, ma ancora più rilevante è che se la tendenza sarà la stessa confermata per quest'anno e il successivo, obiettivo, noi avremo nel 2016 l'1% delle persone più ricche del pianeta che avrà la stessa ricchezza del restante 99%. Addirittura si dice che avrà anche una ricchezza maggiore se si continua così con questa crescita. Più disuguaglianza di così non si può. Abbiamo raggiunto il limite? Abbiamo raggiunto il limite per due motivi. A Davos parleremo chiaramente. A parità di reddito, solo riducendo la diseguaglianza noi possiamo far uscire dalla povertà milioni di persone, ma ha raggiunto anche un limite perché lo stiamo vedendo negli ultimi anni, se ne è accorta anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale. Tale concentrazione di ricchezza non consente una crescita economica diffusa e questo è quindi un problema per l'intero sistema economico mondiale. Questo perché i miliardari presiedono dei settori chiave? Questo sì, all'interno di questi settori c'è una concentrazione sempre più elevata. Servono delle politiche redistributive molto chiare, salari dignitosi tra uomini e donne, c'è un gender gap nei salari, tra i manager superpagati che hanno visto aumentare negli ultimi anni vertiginosamente i loro stipendi e le loro remunerazioni rispetto invece al resto dei lavoratori. C'è un problema di divisione equa del carico fiscale. C'è anche un problema di merito perché più di un terzo di questi miliardari ha ereditato o parte o tutta la ricchezza che detiene, quindi non l'ha guadagnata, no? Sì, quindi anche come rendere un sistema economico più dinamico, che premi l'innovazione, che premi maggiormente il merito e che ridistribuisca maggiormente anche i patrimoni tra generazioni, questo è un tema chiave. Quali sono i metodi per la redistribuzione secondo voi? Ci sono ancora oggi troppe scappatoie fiscali internazionali, manca una governance fiscale globale, anche una solida politica pubblica che valorizzi i servizi essenziali è un elemento, un ingrediente fondamentale come riduzione della diseguaglianza e delle problematiche della povertà. Il rapporto rilancia anche un tema che ultimamente è stato dimenticato, la lotta alla povertà in un mondo dove oltre un miliardo di persone vive con meno di 1,25 dollari al giorno e uno su nove non ha nemmeno abbastanza da mangiare e il tema della lotta alla povertà va ripreso? Ancora una persona su sette è in condizioni di fame nel mondo, noi avremo meno persone che versano in uno stato di povertà se ridurremo anche o se agiremo sulla riduzione delle diseguaglianze. Allora, così il direttore generale di Oxfam Italia, Roberto Barbieri. No, una risposta devo dare ad alcuni ascoltatori sui BTP. Chiaramente è colpa del conduttore se non viene capito. Io non ho detto che sia il momento di comprare i BTP, anzi, ho detto il rendimento è ai minimi storici. Allora, se mi chiedete, io non sono un esperto di BTP, scenderà ancora il rendimento? Se uno si aspetta che il rendimento possa scendere ancora, sì che è il momento di comprare. Ma se uno ritiene che, avendo toccato il rendimento del BTP a 10 anni in minimo storico, non scenderà ulteriormente, non è il momento di comprare. Questo perché? Perché fatto 100 il valore di un'obbligazione, tu compri la differenza sul rendimento, poi lo spiegheremo meglio. Per cui sostanzialmente se aumenta il rendimento, cala il prezzo, mettiamola così. Allora, se cala il prezzo di un bene, tu non vai a comprare adesso a un prezzo alto immaginando che nel futuro cali. Altra cosa, se tu invece immagini che il rendimento potrebbe calare nel futuro e quindi aumentare il prezzo, allora ti conviene comprare un BTP adesso perché il prezzo a cui lo compri è più conveniente. Ma se immagini che il rendimento delle obbligazioni abbia toccato il livello minimo, è al minimo storico, ma non sappiamo se aggiornerà, ma se immagini che questo sia il livello minimo, non ti conviene comprarli perché tutti i BTP futuri e i bot futuri, se avessero un rendimento più alto, avrebbero un prezzo più basso e quindi andresti a comprare una cosa adesso che in previsione potrebbe avere un prezzo più basso. Quindi ripeto, su questo non voglio essere frainteso, ti chiedo di nuovo venia se così è stato. Se uno si attende che i BTP e i rendimenti dei titoli di Stato italiani non aumenteranno più, o meglio, non caleranno più, cioè che abbiano toccato il minimo come rendimento, non deve comprare, perché a fronte di rendimenti più alti nel futuro avresti prezzi più bassi del BTP stesso e non si compra una cosa in cui si prevede un prezzo più basso nel futuro. Se invece uno ritiene che dall'1,60 vado a memoria che è il rendimento del BTP a 10 anni si possa scendere all'1,40, all'1,20, all'1,30, allora sì, conviene comprare adesso, perché compreresti a un prezzo che in futuro sarebbe più alto e quindi compri a vantaggio, ok? Spero questa volta di non generare fraintendimenti e ripeto, chiedo scusa se per la velocità si è capito in maniera differente. Allora andiamo avanti. Sì, grazie Saverio. Invece sul tema delle disuguaglianze, di quanto annuncerà domani Barack Obama, si è concentrato il commento del Sole 24 Ore, dei 100 secondi che realizziamo assieme come Radio 24, assieme a Radio Dimensione Suono, Salvatore Padula, vice direttore del Sole 24 Ore, proprio sulle misure che domani annuncerà la Casa Bianca. Per farti volare come una freccia ci vuole tutta la nostra fibra, perché tu sei le nostre ali e noi il tuo motore. Tu e Fastweb, siamo la fibra che vola. Vi presenta... i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. In un mondo dove, complice la crisi, continuano ad aumentare le disparità tra i pochi ricchi e i tantissimi poveri, anche il ceto medio rischia di subire una progressiva caduta verso le fasce meno abbienti della popolazione. È un fenomeno che non risparmia nessuno, neppure gli Stati Uniti, tanto che per trovare un rimedio persino il presidente Obama si appresta a infrangere un vero e proprio tabù per gli americani, vale a dire l'aumento delle tasse. Più tasse sui più ricchi per avere risorse da distribuire alla classe media attraverso un piano di sgravi fiscali alle famiglie con figli e misure di sostegno sociale, come per esempio l'istruzione universitaria gratuita. Obama illustrerà domani la sua ricetta al Congresso e agli americani. Il piano dovrebbe fruttare 320 miliardi di dollari in 10 anni, senza colpire i redditi da lavoro, ma con aumenti delle tasse sui capital gain e sui dividendi riservati ai contribuenti che hanno redditi molto alti, e la tassazione dei trust, vale a dire quelle società di comodo che servono per trasferire la ricchezza agli eredi senza pagare tasse o pagandone molto poche. Noi non sappiamo, anzi siamo abbastanza sicuri che difficilmente queste misure entreranno in vigore, visto che il presidente Obama non ha più la maggioranza al Congresso e una parte dei repubblicani non accetterà mai l'idea dell'aumento delle tasse. Di certo però la sfida lanciata da Obama diventerà uno dei temi principali e centrali dell'imminente campagna elettorale americana e aprirà il confronto su una riflessione che non potrà essere ignorata neppure dai paesi della vecchia Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ho dovuto questo, visto che oggi in America è il Martin Luther King Day, vedo già molti commenti. Attenzione, insomma, ha ragione Salvatore Padura, domani ne parleremo in maniera approfondita anche con Mario Platero. Probabilmente Obama non ce la farà a far passare questa cosa col congresso che ha, col senato e la camera che ha, però qui bisogna anche mettersi d'accordo. L'aumento delle tasse to cure no, ma l'aumento delle tasse del prelievo all'1% più ricco per andare a fare crediti d'imposta per le famiglie in America, le famiglie media la considerano veramente, cioè fino a 210.000 dollari lordi per l'intera famiglia, che può sembrare tantissimo, però bisogna vedere poi il tipo di famiglia, il numero di figli e le agevolazioni per ogni bambino. Bisogna decidere se ha un senso o no ancora parlare di ridistribuzione. So già l'obiezione, in questo paese è difficile perché con gli sprechi che abbiamo ti passa la voglia di pensare alla ridistribuzione, però è inutile girarci attorno, cioè c'è un problema redistributivo che questa crisi ha aggravato, cioè la parte più ricca è diventata ancora più ricca, la classe media si è ridotta vistosamente e la parte più povera lo è ancora di più per via dell'aumento del tasso di disoccupazione. Allora, c'è un problema o no di ridistribuzione, se si può affrontare il tema? Poi è chiaro che in America lo puoi affrontare perché sai sostanzialmente che ogni dollaro che tu vesti di tasse poi viene utilizzato in maniera molto saggia, molto attenta. Non come da noi, e qui passo alla parte dolente invece. Al di là della buona notizia che per i dipendenti della Camera e dei deputati e anche del Senato finalmente saranno applicati nuovi tetti agli stipendi imposti dalla manovra varata a ottobre, e nessuno potrà guadagnare più di 240.000 euro lordi, quelli che spettano al Presidente della Repubblica, e pensate che a Montecitorio quelli che guadagnano 240.000 euro lordi, più di 240.000 euro lordi, sono 500 dipendenti su 1.300, cavolo. E andrà a regime nel 2018 con calma, per far assorbire lo shock. La Camera in questo modo in 4 anni risparmierà 60 milioni di euro, ma non si poteva fare tutto in una volta, no? E altri 37 milioni li risparmierà in 4 anni il Senato. Non risparmieranno nessuno, compreso il neo segretario generale di Montecitorio, Lucia Pagano, che prenderà 260.000 euro lordi. Il suo predecessore, chi era? Zampetti? Adesso andiamo a controllare, guadagnava 460.000 euro lordi per fare il segretario generale di Montecitorio. Lucia Pagano ne guadagnerà la metà. E poi a ruota i documentaristi, ragionieri e tecnici scenderanno da 237.000 euro a 166.000, i segretari da 150 a 115, i consiglieri parlamentari che con 40 anni di servizio arrivavano a 360.000 euro scenderanno a 240.000 euro. Sono esclusi però i contributi e le indennità. Vabbè, i tagli saranno effettuati a scaglioni, secondo aliquote crescenti. Nel primo scaglione sono inseriti gli stipendi che eccedono fino al 25% il nuovo tetto, nel secondo quelli che sfondano dal 25 al 40, nel terzo quelli che vanno oltre 40. Nel giro di 4 anni tutti saranno a regime. Detto questo, poi uno... E va bene che alla Camera, al Senato si riducono stipendi. Era Ugo Zampetti, io sono abbastanza sicuro che era Ugo Zampetti che guadagnava 460.000 euro lordi per fare il segretario generale da casa. È un ruolo importante, ho capito, ma è un ruolo, ma anche il primario è un ruolo importante, no? Adesso non entriamo nella... Cioè, anche chi fa il turno di notte è un ruolo importante, anche l'insegnante, anche il preside è un ruolo importante. Zampetti, so che era legale, non c'era nessun tetto. Non ce l'abbiamo con Zampetti, però io se fossi Zampetti farei il beau geste e direi: guardate, con tutto quello che ho guadagnato, quella che si dice a questo paese, do parte del mio compenso, ma figurati. Allora, intanto oggi noi ci concentriamo su Carmen Zizza. Dice, oh, ma che è un'attrice, una cantante? No, Carmen Zizza, non ho capito come si pronunci, soprannominata la Zarina, dal 2013 era la direttrice generale dell'ASAM. Voi direte che è l'ASAM, una roba di spie. No, l'ASAM è la holding della provincia di Milano, che con la chiusura delle province è passata sotto la gestione della regione. Allora, lei era chiamata enfant prodige perché era giovane, era arrivata subito ai ruoli di vertice. La nuova presidente, Elena Di Salvia, ha cominciato a spulciare nei bilanci della ASAM sotto la gestione di Carmen Zizza, e insomma ha scritto una lettera alla Zizza dicendo: scusatemi, ci sono un insieme di contestazioni, vediamo. L'ASAM quanti dipendenti ha? 3, compreso il direttore generale. Già voglio dire, con 3 dipendenti, cioè con 2 dipendenti fare un direttore generale, vabbè. Ha fatto spese per l'astronomico importo, non sono parole mie ma sono parole della Di Salvia che scrive una lettera, per 141.000 euro più 96.000 euro nel periodo gennaio-settembre. Che cosa ha speso? Diciamo, magari ha speso. Allora ha speso in 3, compresa la direttrice generale Carmen Zizza, 50.000 euro in alberghi, ristoranti, bar e viaggi nel 2013. 50.000 non è proprio una. No. E 25.000 nei primi mesi. Poi 55.000 euro di autovettura a noleggio in 2 anni, 100.000 euro di convegnistica, 26.000 euro di telefonia mobile, 1.300.000 euro di consulenze nel 2013. Ma che fa l'ASEM di consulenze? E 430.000 euro nei primi 9 mesi del 2014. Dottoressa Zizza, ci spieghi. Lei ha risposto, ma erano state autorizzate dalla presidenza del consiglio di amministrazione. Vabbè, l'azienda si era occupata da direttore generale anche dell'attentata vendita della Serravalle, una vicenda che aveva portato la Zizza in giro per il mondo con un roadshow, perché tutto il mondo voleva investire nella Milano Serravalle, no? È noto che da Hong Kong a Shanghai, da Tokyo a San Paolo, sono tutti lì pronti a investire nella Serravalle. Infatti hanno fatto 3 diversi bandi e nessuno si è presentato. Forse il roadshow era più show che road. E che devo dire, Zizza? Ma arriviamo alle 2 notizie più belle di oggi, poi devo chiudere. Una, cioè è ufficialmente dimostrato che anche le tangenti soffrono e anche i tangentari piangono, e che la crisi morde anche sul fronte delle tangenti, perché praticamente Antonio Orsini, dipendente di Lazio Service, società partecipata dalla Regione Lazio, in cambio di notizie riservate sulla situazione patrimoniale dei personaggi che richiedevano i suoi servizi, chiedeva come tangente 2 euro. E lui lavorava sul mass market, evidentemente c'è sta mass market. Si andava dalla cancellazione dell'omesso pagamento del bollo auto, insomma lui è finito sotto processo con l'accusa di corruzione, però 2 euro forse è un nuovo mondo nelle tangenti. Pagare meno e pagare tutti sul fronte delle tangenti, no? 2 euro a tangente, va bene. Lui in alcune occasioni ha preso anche bustarelle superiori ai 2 euro, ma mai superando la soglia dei 5 euro. Aveva iniziato, era un modo nuovo, una forma un po' cooperativistica. Lui aveva praticamente la capacità di conoscere lo stato patrimoniale di centinaia di persone per conto dei clienti, no? E poi però c'è un altro, un Walter Onorati, direttore commerciale della CDM, che ha raccontato agli investigatori che per fare una verifica su 400 soggetti versò ad Orsini 2000 euro, da lì si è arrivati poi al pagamento delle mini tangenti. Cioè andava lì, uno gli offriva un cappuccino, un caffè e aveva le informazioni sullo stato patrimoniale. Ma mai come che nel nostro palmarès oggi Agrigento, al 15 dicembre scorso, le 6 commissioni permanenti del Consiglio Comunale. Allora, questa è una cosa pazzesca. Ci sono 6 commissioni permanenti del Consiglio Comunale. Ogni volta che si riuniscono hanno un gettone, i partecipanti. Oh, quante volte si sono riunite? Facciamo così. Nel 2014, 6 commissioni comunali per... quante volte si saranno riunite? Dopo il metodo, la pubblicità, vi do la cifra esatta. Nel frattempo mandate la vostra ipotesi e magari vi vedremo un gettone della presenza ad Agrigento delle commissioni permanenti del Consiglio Comunale. Quante volte si saranno riunite secondo voi nel 2014, considerando che ogni volta che si incontrano, anche se per un minuto, scatta il gettone di presenza. Meteo. Troppo buoni, mi sto riferendo all'indovinello. Quante volte si saranno riunite nel 2014 le 6 commissioni permanenti del Consiglio Comunale di Agrigento, considerato che ogni gettone, ogni volta che si riunisce una commissione anche per un minuto, scatta per ogni consigliere, scattano 50,34 euro di gettone. Diamo un aiuto, prendiamo il comune di Trento. Le commissioni permanenti hanno totalizzato nel 2014 109 riunioni. Ok? Quante ne avranno totalizzate come a scuola le commissioni permanenti di Agrigento? Risolvi il problema. Nel frattempo chiedo scusa a chi? Sì, perché non è ancora indagato in realtà. Orsini, il mini tangentaro, cioè, quello che aveva un approccio, diciamo, socialista nei confronti delle tangenti, 2 euro a tangente, rischia di finire sotto processo. Non è ancora sotto processo, se no mi fa querela pure lui. Allora, sveliamo l'arcano, dai, che non posso fare la puntata su questo. Si sono riunite 1133 volte. E vai, cioè 109 riunioni a Trento, 1133 riunioni delle sei commissioni permanenti del Consiglio Comunale di Agrigento. Cioè, ci stiamo, praticamente ogni commissione si è riunita 213 volte, considerando che i giorni sono 365, ma ci sono anche le domeniche. Abbiamo scoperto che ci sono verbali delle riunioni. Pensate, il 12 marzo 2014 la riunione inizia alle 11:50 e si conclude alle 12. Ma che? 12, cioè 10 minuti. Tatta! Una sveltina, non è niente. Il 26 febbraio comincia alle 12:05 e si chiude alle 12:20. Beh, un po' più di sudore sulla fronte, 15 minuti. L'8 agosto, che tu dici, ma tu te lo immagini il Consiglio Comunale, le commissioni permanenti ad Agrigento l'8 agosto? Sì, inizia la riunione alle 9:45 e alle 10 in punto si conclude. 50 euro. No, ma è bellissima, hai capito? Pensate che la prima commissione, che si chiama prima commissione, si è riunita 213 volte per parlare ad Agrigento di sviluppo e occupazione. Ad Agrigento la disoccupazione ha toccato il 17,3% ed è finita Agrigento stessa all'ultimo posto, purtroppo, nella classifica sulla qualità della vita del Sole 24 Ore. Allora, vi siete riuniti in questo caso 213 volte, per dire che cosa? Per 10 minuti, hai visto come siamo messi male? Siamo messi male, sì, grazie, arrivederci. Baci, abbracci, 50 euro. Mi ricorda qualcosa. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, sia me e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Oh, fermi. Scusi, sacco, doganiere. Scusi. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra, esce, sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sempre. Grazie, arrivederci. Senta. Ehi, hey! Chi siete? Ma da spango! Cosa portate? Complimenti alle 1133 volte delle sei commissioni permanenti del Consiglio Comunale di Agrigento. Adesso andiamo sulla borsa fra un attimo. Prima di tutto sulla Russia. Intanto vi do però la chiusura di borsa con il botto positivo delle banche popolari, tutte confermate in rialzo amplissimo. Pop Milano più 15%, UbiBanca più 9,70, Pop Emilia Romagna più 8,50, Banco Popolare più 8,30 e poi invece a seguire le altre banche buone, ma non con questi strappi. Allora, andiamo in Russia. Certo che io una di queste riunioni delle commissioni permanenti del comune di Agrigento vorrei vederla. Tutti 10 minuti. Ciao, come stai? Bene, dove vai? Ciao. 50 euro a testa. Antonella Scott, voliamo alto con te, nel senso che ci occupiamo, passiamo dagli sprechi della nostra pubblica amministrazione a quello che sta capitando in Russia. Voliamo alto, ma tra virgolette sull'orlo del precipizio. Buonasera Antonella. Buonasera. In collegamento con noi da Mosca. Allora Antonella, per quello oggi c'è un nuovo outlook, una nuova previsione della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la BERS, che dice che quest'anno il PIL russo non calerà del 2,8%, ma di quasi il 5%, c'è un tracollo. Sì. E citano il costo del petrolio e le sanzioni internazionali. Pensate che a settembre, cioè non tanto tempo fa, la stima era di un meno 0,2%. Ma così, cioè il peggioramento è così forte? Sì, Possiamo dire che praticamente da settembre è cambiato tutto, appunto, con questi dati è evidente, anche perché poi bisogna dire che questa previsione della BERS meno 4,8% non è poi tanto lontana né da quella dello stesso governo russo, che ormai ammette che con l'attuale prezzo del petrolio l'economia rischia di una recessione del 4% per quest'anno, ma anche Moody's, una delle tre agenzie di rating che stanno trascinando la Russia verso il livello junk, quindi spazzatura, come rating del credito, della fidabilità creditizia della Russia, Moody's prevede una recessione del 5%, quindi più o meno sono cifre che si allineano e che sono, appunto, da settembre a oggi la ragione è che nel frattempo, o alla situazione che conoscevamo ormai da mesi, cioè la crisi ucraina e quindi le sanzioni, la fiducia degli investitori che viene meno, i problemi strutturali dell'economia russa, a tutto questo si è sommato il calo del petrolio, che è la voce più importante dei conti russi. Antonella, su questo, allora, sappiamo che il rublo è ai minimi di nuovo nei confronti di euro e dollaro. Sappiamo che il petrolio ha perso il 50% del valore, sappiamo anche che il gas si appresta a seguirlo, è un po' in ritardo, ma scenderà di valore anche il gas. Il vero problema, mi sembra di capire, in questo momento però per la Russia e la banca centrale russa si chiama fuga di capitali, perché nel 2014 sono usciti dalla Russia 151 miliardi di dollari e fin qua dici, vabbè, no, è che 70 sono usciti negli ultimi 3 mesi. Pensate che la banca centrale si attendeva a 130 miliardi, ma il problema, nel 2013 uscirono dalla Russia 61 miliardi in tutto l'anno. Negli ultimi 3 mesi del 2014 sono scappati dalla Russia i capitali pari a tutti quelli usciti in un intero anno l'anno prima, per dare le proporzioni. E tra l'altro la banca centrale, se ho ben capito, ha messo a disposizione fino a 17 miliardi di dollari di pronti controtermini in valuta straniera, di cui 10 annuali con tasso di interesse dell'1,1%, per cominciare ad arginare. Ma sta ottenendo qualche effetto la banca centrale russa? Perché ci sembra che stia spendendo molto per ottenere molto poco. Infatti questa è proprio la ragione che preoccupa gli investitori e le agenzie che stanno, appunto, valutando quello che può succedere nei prossimi mesi. La preoccupazione è che il livello, le risorse, questo cuscinetto su cui la Russia può contare, che non è da poco, perché comunque la Banca Centrale Russa conta su uno dei livelli più alti di riserve in valuta tra le banche di tutto il mondo, e però queste sono risorse che stanno piano piano assottigliandosi, proprio perché è l'unica risorsa su cui si può contare per cercare di dare una mano al sistema bancario in primo luogo e poi alle imprese russe, che con tutti gli impegni che hanno, il loro debito nei confronti dell'estero, in questo momento possono contare soltanto su questo, perché non hanno più la possibilità di accedere ai mercati internazionali dei capitali, proprio a causa delle sanzioni. Quindi la fuga di capitali, che appunto è triplicata, come dicevi tu Sebastiano, è il risultato, da una parte, appunto, di una sfiducia che comunque è radicata un po' nella storia e quindi continua il trend degli anni precedenti, e in più si aggiunge il fatto che sono tutte, appunto, le compagnie che devono ripagare il loro debito, sono quindi tutti i capitali che stanno uscendo e che non vengono più rivisti. Sì, io temo. Hai ragione Antonella, io temo che, vista l'accelerazione con cui stanno peggiorando queste prospettive economiche, temo che non sia ancora finita. Cioè, a settembre era ancora meno 0,2, a fine novembre, dicembre si passò da chi stimava più 0,5 a meno 2,8, adesso siamo a meno 4,8 in Russia, per non confondersi, se ne occuperà anche il forum di Davos, immagino. Non so con quali risultati, però mi sembra che non stia migliorando nulla e tutto stia peggiorando, ed è, lo faccio notare, la Russia molto più che la Grecia, anche se per noi europei dell'area euro è la Grecia quello che adesso spaventa le elezioni 25, è la Russia la vera incognita sull'economia europea, in questo caso visti i rapporti che abbiamo con la Russia. Grazie ad Antonella Scotti in collegamento con noi da Mosca, e allora andiamo però al resto anche della borsa. Fra poco arriviamo alle banche popolari che sono le protagoniste indiscusse della borsa. I migliori titoli, a parte Acotel Group più 17, Pop Milano più 14,90, UbiBanca più 9,70, Credito Valtellinese più 9,60, Pop Emilia Romagna più 8,50, Banco Popolare più 8,30, Popolare Etruria del Lazio più 8,20, Popolare Sondrio più 8%. Poi Mediobanca più 4,5, Monte dei Paschi più 3,70, Unicredit più 2,40. Bene anche il lusso oggi, non so se c'entra il fatto che c'è la moda a Milano. Ferragamo più 4,20, Tod's più 3,70 e P-Quadro più 7,21%. Allora lasciamo stare per un secondo le banche popolari e con Eleonora Micheli di Radio Colli Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. Parliamo degli altri settori, lusso e oggi invece deboli gli energetici, nel giorno in cui l'America comunque è chiusa per il Martin Luther King Day. Eni meno 0,80, Enel meno 0,40 e Saipem meno 0,50. Eleonora. Gli energetici hanno limato, come hai detto tu, nonostante peraltro il petrolio sia in rialzo, sia sopra i $47 al barile. Comunque appunto gli investitori preferiscono prendere profitto dopo i mini rialzi della scorsa settimana. Per quanto riguarda il lusso... Ecco Eleonora, siccome il lusso è un po' più articolato, abbiamo il GR, facciamo così, resta con noi in collegamento e ti faccio dare l'analisi in maniera più compiuta dopo il GR24 349 238 6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Donna Micheli, ti ho interrotto prima del GR24 sul tema del lusso, che al di là delle popolari, di cui parleremo fra un attimo, è l'altro tema di borsa, seppur minore. Tod's più 3,75, dicevamo Ferragamo più 4,25, P-Quadro più 7,20. Prego. Sì, come hai detto tu, in questi giorni si tengono a Milano le presentazioni per le collezioni maschili del prossimo autunno-inverno, ma già come appitti anche a Milano c'è un po' di fermento, c'è un numero crescente di visitatori e quindi questo fa sperare positivamente. Poi ad esempio l'amministratore delegato di Ferragamo, Norsa, proprio ieri a margine della sfilata ha dichiarato che il 2014, ricordiamo che i dati devono essere ancora annunciati, comunque il 2014 per la casa fiorentina si è chiuso molto bene, ha detto che anche il 2015 è partito bene. Del resto Ferragamo ha ad esempio oltre 100 negozi negli Stati Uniti e quindi la debolezza dell'euro sul dollaro non fa che favorire i conti della casa, è per questo che Ferragamo oggi è salita di oltre il 4%, comunque è andata bene anche Moncler, che era salita diciamo più negli altri giorni, ieri c'è stata la sfilata e ha fatto più 1%, altrettanto si può dire di Tod's, più 3,75%, Luxottica invece ha fatto più 1,8% nell'attesa dei conti dati sulle vendite che poi sono stati annunciati a borsa chiusa. E come sono? Ma sono come al solito positivi, sono non è una brutta notizia. Conti in crescita, quindi ovviamente è una cosa positiva per l'azienda. Poi tra gli altri titoli citiamo, ripeto, oggi l'America è chiusa, anche Mediolanum va bene, più 1,50%, Telecom più 1,40%, Tenaris più 1,30%, Intesa San Paolo più 1,30%, devo dire che anche Monte dei Paschi, Unicredit e Mediobanca si sono mossi in maniera così forte, Eleonora, perché se parte il nuovo diciamo circo sulle popolari, quindi consolidamenti, acquisizioni, loro sono visti come predatori, no? Premesso che ancora non si sa niente di questo decreto-legge, quindi non si sa bene, è tutta un'illazione che coinvolga le popolari. Le popolari potrebbero essere trasformate in spa, è la volta buona, alcuni dicono, e quindi ne beneficiano più degli altri istituti. D'altra parte, a favorire gli acquisti dovrebbe essere anche, cioè ha favorito gli acquisti sulle banche il fatto che Renzi venerdì scorso ha detto non abbiamo avuto paura a ridurre il numero dei parlamentari, altrettanto non abbiamo paura a ridurre il numero dei banchieri. Questo fa presagire un consolidamento del settore, un decreto legislativo che magari vada a favorire le fusioni e quindi magari metta insieme una banca e una popolare. Sì, ma appunto adesso ne parliamo, il ragionamento è poi del mercato, che se qualcuno è predatore e qualcuno è preda, è più probabile che il predatore sia Unicredit, Monte dei Paschi, le banche grosse, e la preda, cito sempre in teoria, una banca più piccola. Di solito è il leone che caccia la gazzella, diversamente abbiamo mai visto, o forse ci siamo persi qualche puntata di Quark. Grazie a Eleonora Micheli in collegamento con noi a Radio Corriere Sole 24 Ore. Restiamo sul tema delle popolari, perché come già anticipava la Micheli, domani ha confermato Palazzo Chigi che ci saranno le banche al centro del Consiglio dei Ministri. Ehi, buonanotte. Del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Amministrazione era quasi freudiano, e tutto all'interno del decreto cosiddetto Investment Compact. Io non ho ancora capito perché non ci sia un decreto importante scritto con un titolo in italiano: Jobs Act, Investment Compact. Qual era quell'altra disclosure? Come si chiamava adesso? Voluntary disclosure, magari, ma in italiano l'abbiamo dimenticato, e sì che il premier è Fiorentino. Comunque, comunque parliamo delle popolari. Prego con la base. Allora, stando alle indiscrezioni, nella bozza dell'Investment Compact comparirebbe l'abrogazione del voto capitario, lo ripetiamo, nel mondo delle popolari una testa un voto, puoi avere il 10%, puoi avere lo 0,01%, conti sempre per uno. Scomparirebbe anche la soglia tuttora presente dell'1% massimo come partecipazione di un singolo socio, non posso comprare più dell'1%, e scomparirebbe anche la norma relativa al numero minimo di soci previsti, almeno 200, cioè scomparirebbe tutto quel mondo che sta dietro, che appartiene alla storia di questo paese, che sta dietro all'esistenza delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, che avevano un atteggiamento mutualistico sul territorio, per cui non ci dovevano essere soci di troppo peso, perché era appunto una idea collettivista, cooperativistica del mondo delle popolari. Molti obiettano, attenzione, i colossi Banco Popolare, Pop Emilia Romagna, Ubibanca e Pop Milano, di quel mondo lì non hanno più traccia. Salvatore Bragantini, economista, ex commissario Consob, consulente anche di Borsa Italiana per le piccole e medie imprese, buonasera. Buonasera. Allora, scompare un mondo che non c'è più, quindi sono rimaste le norme, le regole, ma non più il mondo, o in realtà trasformare in SPA normali, diciamo, le banche popolari presenta qualche rischio, soprattutto su quelle più piccole? Prego Bragantini. Ma io ho qualche dubbio che questo mondo scompaia. Viviamo tutti da tanti anni in realtà italiana e sappiamo della, diciamo, capacità del mondo delle banche popolari di difendere le proprie prerogative, buone o non buone, e di resistere. Io francamente, che ci sia domani un investment compact, anch'io trovo un po' ridicolo questo abuso dell'inglese, perché non c'entra niente fra l'altro, che domani esca un testo che prevede questo, lo posso credere. Che questo testo esca dal Parlamento mi sembra molto improbabile. Allora, in cauda venenum, lei nella coda ci ha messo veleno, lei dice il governo lo farà. Poi, siccome, diciamo, già nel passato abbiamo visto che ogni tentativo di riforma del mondo delle popolari, siccome ci sono esponenti nel Parlamento che hanno a cuore il territorio, le popolari sono molto legate al territorio, e poi si arena in Parlamento, se ho ben capito. Io ricordo che la commissione Draghi, della quale a suo tempo ebbi l'onore di fare parte, licenziò un testo che andò in Parlamento che prevedeva che la raccolta delle deleghe si applicasse anche alle banche popolari. Il Parlamento lo cassò senza alcun dubbio. Quindi adesso sono passati tanti anni, però che la cosa vada via così, de plano, come si dice, francamente ci credo poco. Quindi le banche popolari sono ancora molto popolari in Parlamento. Sì. Allora, dopo il traffico, vorrei capire, però, tornando alla domanda iniziale, Bragantini, immaginiamo che insomma, il Parlamento in realtà sia cambiato, non lo so, e che questa sensibilità fortissima per il ruolo che hanno le banche popolari sul territorio nei collegi elettorali, ma non che ci sia qualcosa di illegale, attenzione, semplicemente che sappiamo tutti come funzionano i territori, la banca popolare di X ha una grossa presa su tante cose, c'è tutto insomma un mondo che si tiene, lei teme possa bloccare la riforma, ma ammesso e non concesso che la riforma passi, dovremmo rimpiangere qualcosa o no? Perché questo voto capitario, la soglia minima, non nasceva per una follia, nasceva per l'idea che in banche che devono raccogliere e ridistribuire su un territorio diciamo specifico, non fosse corretto avere il paperone dei paperoni che poi si piglia la banca, ma che tutti in una maniera cooperativistica dovessero stare al massimo all'1%, al massimo una testa, un voto, minimo 200 soci. Dopo il traffico mi dica se non rischiamo di perdere qualcosa, visto il rapporto molto delicato tra banche e territorio. Allora, di nuovo in diretta, Bragantini, visto che lei è consulente anche per la Borsa Italiana del mondo delle PMI, ci vanno a perdere qualcosa le nostre, rischiano di perdere qualcosa le imprese del territorio e gli abitanti del territorio da delle popolari che si dovessero trasformare in banche SPA normali? Guardi, io penso che il mondo delle popolari abbia avuto il torto di resistere a qualsiasi tentativo di cambiamento e questo abbia come conseguenza il rischio di una loro sparizione. Io ripeto, non credo che spariranno, non credo che sarebbe neanche bene che sparissero del tutto. Io credo ci dovrebbero essere dei correttivi al voto capitario, che oggi si presta a degli abusi che conosciamo tutti. Ci sono banche popolari dove 200 dipendenti prevalgono su... La Popolare di Milano, per esempio, che ha pure il sindacato interno. Ma ci sono tanti casi di abusi che andrebbero, diciamo così, stroncati. Il modo di farlo c'è, senza abolire del tutto il voto capitario. Io, diciamo, una volta forse sarei stato per l'abolizione totale del voto capitario. Visto come è girato il mondo negli ultimi 20 anni, sono diventato forse un po' più conservatore. Penso che si potrebbe contemperare il voto capitario con il peso che merita un investitore che mette magari il 5% del capitale e non può rischiare di trovare che il voto di un socio che ha un'azione valga. Sì, la mia domanda era forse ancora più maliziosa, ma voglio dire, che differenza c'è, col massimo rispetto, tra la Popolare di Milano, UbiBanca e, non so, una banca o il Banco Popolare e un'altra banca, cioè voglio dire UniCredit piuttosto che... Cioè, voglio dire, lei ha ragione, sono delle banche come le altre, tanto più che spesso resta un dettaglio tecnico, resta Popolare la scatola quotata e le banche sottostanti sono delle SPA, per cui il cliente in verità tratta con una SPA, è Popolare la scatola che c'è sopra. Questo, per cui hai solo un vantaggio, o meglio, ha un vantaggio chi c'è dentro. La banca non è contendibile, non è sul mercato, nel senso che io penso che il rischio di lasciare le cose come stanno adesso sia, e l'abbiamo visto in alcuni casi popolari, che un management che gestisce male non può essere mandato via e porta la banca al tracollo. Il caso di Lodi è il più evidente che viene in mente. Questo è il vero rischio, la intoccabilità. Sì, oddio, la battuta viene facile, anche Monte dei Paschi è finito nel tracollo eppure era contendibile, infatti, nel senso che su quello contendibile non era nei fatti, una riserva di caccia politica. Di caccia del PD, diciamo, tutte, sennò poi mi dicono: ah, lei non cita mai il PD. È vero, del PD e della fondazione anche Monte dei Paschi di Siena, così la diciamo tutta. Anche di un giro senese toscano. Vedi, per esempio, lì c'era una banca che non era popolare, ma operava da banca popolare. Adesso mi viene la battuta, nel senso che distribuiva sul territorio a tutti, veniva percepita dai senesi come la banca di Siena, eppure non aveva il voto capitario. Cioè, voglio dire, mi dica un'ultima cosa, però, Bragantini. Visto che qui ragioniamo dell'universo dei popolari, che sono 70 banche che hanno una quota di mercato del 25%, non sono proprio poco, un quarto del mondo bancario italiano è fatto da banche popolari, e che oggi abbiamo visto una raffica di sospensioni, lei è convinto che la mossa di Mario Draghi potrebbe in qualche modo dare un ulteriore colpo? Cioè, il suo giudizio sul quantitative easing sul mondo bancario qual è? Avete il problema quantitative easing, credo che sia soprattutto, forse voi ne avete già parlato in altre parti della trasmissione, la diciamo ripartizione a chi va a rischio di eventuali perdite. Per il resto penso che il quantitative easing sia diretto più a ridurre, ad aumentare l'inflazione che come efficacia nei confronti del finanziamento delle imprese. Quindi secondo lei, perché abbiamo sentito in Camera Caritatis alcuni banchieri in questi giorni e tutti dicevano, attenzione, sì, il quantitative easing potrà servire per le banche, per comprare un po' di titoli di Stato che abbiamo in pancia, ma non avrà questo effetto sulle imprese. Primo, perché se le imprese non tornano a investire, non vedono uno scenario migliore, non vanno a chiedere soldi, ma anche perché il timore è che i parametri chiesti poi alle banche siano così stretti da, diciamo, rendere inefficace anche la trasmissione di prestito bancario alle imprese. Sì, questo c'è sicuramente. Io ripeto, credo che il quantitative easing sia soprattutto volto ad aumentare l'inflazione in modo che si possa avvicinare al 2%. Non credo che abbia un enorme influsso sul... Però, Bragantini, mi scusi, ma un'inflazione senza crescita economica non è il peggiore dei mali a quel punto? Ma vede, è stato spiegato da Mario Draghi recentemente in maniera abbastanza appropriata. Se uno mira all'inflazione 0%, che questa sarebbe la conseguenza di quello che dice lei, vuol dire che ci saranno degli anni in cui l'inflazione è al 2 e degli anni in cui l'inflazione è a meno 2. Il problema è che quando l'inflazione va al meno 2 non torna più su. Quindi c'è una simmetria in questo fatto, non si può correre il rischio della deflazione perché poi seguono decenni di stagnazione economica. Di stagnazione. Questa è la vera ragione per cui si è scelto questo target del 2%. L'altra ragione, che riguarda più da vicino noi italiani, è che un aggiustamento relativo alla competitività si può fare più facilmente con l'inflazione al 2% senza toccare i salari che non a tasso zero, a inflazione zero, perché a quel punto si devono toccare i salari ed è molto più doloroso. Allora, grazie intanto Salvatore Bragantini. Noi restiamo sul tema invece di quello che deciderà Mario Draghi giovedì, il quantitative easing, quindi l'acquisto di titoli di Stato in pancia alle banche dell'area euro da parte della Banca Centrale Europea, stampaggio di moneta, ma lo giriamo su un fronte che interessa anche molto gli ascoltatori: cosa fare coi titoli di Stato, e cioè abbiamo visto che il BTP la settimana scorsa è sceso al rendimento BTP a 10 anni, minimo storico. Prima io spiegavo in maniera un po' veloce, se uno si attende che il BTP cresca come rendimento nel futuro, non lo deve comprare adesso. Se ti aspetti che il rendimento scenda, lo compri adesso, perché il rendimento e il prezzo di un'obbligazione sono inversamente proporzionali. Più alto è il rendimento, più basso è il prezzo. Più basso è il rendimento, più alto è il prezzo. Allora, se tu ti aspetti che il rendimento salga, vuol dire che il prezzo scenderà, e non vai a comprare adesso una cosa che avrà un prezzo più basso nel futuro. All'opposto, se ti aspetti che il rendimento scenda, vuol dire che il prezzo salirà, e allora sì, ha un senso comprare adesso una cosa che in futuro costerà di più. Moria Longo, il mitico Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, allora, a tutti. Quante cavolate ho detto fino adesso? Ma più o meno nessuna, dai, diciamo. Che già è una notizia. Allora, intanto dammi tu, cioè l'effetto di Draghi sui BTP, sull'acquisto di titoli di Stato. Che cosa deve fare un risparmiatore adesso? Allora, quantitative easing, come dicevi giustamente tu, significa che la banca centrale inizia a stampare moneta comprando titoli di Stato. Quindi compra titoli e li paga sul mercato con nuovi euro, con moneta nuova. Quindi l'azione della banca centrale sarà di acquistare titoli di Stato in maniera proporzionale di tutti i paesi europei. Si stima che questa operazione dovrebbe essere almeno 500 miliardi, ma oggi c'era un sondaggio tra gli economisti che lo prevedevano a 550, qualcuno parla di 600. Comunque, almeno mezzo miliardo. Comprerà un bel po' di titoli di Stato. Allora, se la banca centrale compra tanti titoli di Stato, è prevedibile pensare che i prezzi di questi titoli salgano e i rendimenti continuino a scendere. Quindi è verosimile immaginare che i BTP possano ridurre ulteriormente i loro rendimenti. E quindi avrebbe un senso comprarli adesso, perché so, però, che sembra strano dire, ma come, compro una cosa che va a ridurre il rendimento? Sì. Sì, perché quando si riduce il rendimento aumenta il prezzo, tu adesso la compri, poniamo a 98 e rende 2, che non è così, però se renderà meno vuol dire che il prezzo fra un mese sarà 99 e renderà 1, e allora tu hai comprato una cosa a 98 che ne vale 99 e ci hai guadagnato 1. Prego. Sì, esattamente. E quindi diciamo logica vorrebbe questo, che i rendimenti scendessero e i prezzi salissero. Il punto è che il mercato ha già molto scontato questa manovra, anzi ha fatto tantissimo, cioè, il mercato ha corso moltissimo. Gli acquisti sui titoli di Stato, anche italiani, in attesa degli acquisti da parte della BCE sono stati già molto forti. Quindi i rendimenti sono già scesi molto. Quindi è possibile che quando la BCE inizierà a acquistare il mercato possa iniziare a prendere profitto. Quindi l'effetto sui rendimenti potrebbe non essere così ancora forte come ci si può aspettare. Quindi diciamo, regola vorrebbe, ricapitolando, che i rendimenti continuassero a scendere, ma non è detto, perché il mercato li ha già fatti scendere molto, quindi potrebbe dopo scontato. Rilassarsi. E quindi potrebbe, allora, regola vorrebbe di comprare adesso, però siccome il mercato si muove, si dice in inglese che compri sui rumors e vendi sulle notizie, cioè compri sulle voci e vendi sulla notizia, ha già scontato ampiamente, a nostro avviso, che la mossa di Mario Draghi, quindi rischi di comprare adesso e di vedere che il prezzo in realtà non aumenta, quindi il rendimento non scende granché. Comunque lo faccia un po' e dopo si assesta. E poi si assesta. Quindi... Altra cosa invece, il tema di come funzionerà questo quantitative easing, perché molti sperano ancora che non serva solo alle banche, come diceva Bragantini, a creare un po' di inflazione, ma possa servire anche alle banche per avere nuove risorse e utilizzare queste risorse sulle imprese. Moria. Allora, come funzionerà lo deciderà, ovviamente lo annuncerà Draghi. Si pensa adesso, la trattativa in corso, diciamocela chiara, tra la Banca Centrale e la Germania, sostanzialmente è questa, è su chi ripartire il rischio. Perché se la Banca Centrale Europea compra titoli di Stato di tutti i paesi, compra titoli anche italiani, si tiene il rischio di questi titoli che compra, nel caso in cui l'Italia non andasse bene. Alla Germania questo non sta bene, chiede che gli acquisti non siano fatti direttamente dalla Banca Centrale Europea, ma da ogni Banca Centrale nazionale, per esempio per l'Italia la Banca d'Italia. In questo modo il rischio Italia di un eventuale ce lo teniamo noi. Allora si sta trattando su questo, forse faranno 50-50, troveranno un accordo. Ma se dobbiamo tenerci il rischio Italia non facciamo neanche l'operazione. Cioè... Sì, difatti questo tra l'altro andrebbe anche un po' a sconfessare diciamo l'unità europea monetaria. Detto questo, si sta trattando su questi temi, quindi su come sarà architettato questo. Sì, questo l'unico piano. Che ha fatto una gaffe è Hollande, che comunque in crescita nei sondaggi per altri motivi, ha detto giovedì la BCE deciderà di acquistare debiti sovrani. Poi gli hanno fatto notare, attenzione, la BCE non ha ancora parlato, non ha ancora detto nulla, cioè, insomma, hai capito? Già venerdì si era congratulato con la BCE per aver portato l'inflazione vicino allo zero. Qualcuno deve spiegare a Hollande che l'inflazione vicino allo zero è una minaccia per la BCE, anche il PIL vicino allo zero, no, perché sennò... Vabbè, dai, allora chiaro, poi giovedì vedremo esattamente. Comunque l'operazione, se verrà fatta in questi termini, varrà almeno mezzo miliardo di euro. Noi iniziamo a mettere le mani avanti, non facciamoci troppe illusioni su quanto potrà essere girato al mondo delle imprese. Sì, perché siccome la Banca Centrale compra sul mercato, per arrivare i soldi al mondo delle imprese sono le banche che poi devono aumentare il credito, per cui non è, il meccanismo non è affatto scontato, affatto diretto. Negli Stati Uniti, dove il quantitative easing ha avuto successo, però lì le imprese si finanziano molto sul mercato, non certo. In banca. Sì, i miliardi sono 500, ci mancherebbe, almeno 500, cioè chi oggi stimava in 550 i miliardi. Grazie Mario Longo, da Sebastiano Barigione l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.